Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quante persone ha accolto quella casa? Quanti festeggiamenti? Una volta era la banda, un'altra gli amici della festa dell'agricoltura o gli alpini. C'era sempre un motivo perché il Ferrandino fosse pieno di gente. Mi chiamo Gigi Cusmini, il nome vero è Luigi, ma tutti mi conoscono come Gigi. Ho 54 anni e abito a Calvenzano, in provincia di Bergamo. Allora, io mi occupo di informatica da molti anni, è la mia professione con la quale mi mantengo, ma per passione faccio anche il mago. Oggi, se ascoltate questa puntata da casa vostra, siete un briciolino più fortunati degli altri. Se invece siete in macchina o siete in ufficio o comunque non siete in casa, basta che facciate un piccolo sforzo di immaginazione. Bene, siete in casa, non siete in casa, ma immaginatevi. Guardate le pareti di casa vostra, guardate i pavimenti, guardate quello che c'è appeso sui muri. Magari fate un salto in camera vostra dove dormite da 20 anni, in cucina, provate ad aprire un cassetto, guardate cosa c'è dentro. Ok, e adesso immaginate quella casa abbattuta da una ruspa. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 minuti in punto, in diretta da Milano, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. Non voglio abbattervi già in questa giornata di freddo che sembra novembre con un'immagine orribile come quella della propria casa buttata giù e della propria casa con tutti i ricordi di quella casa abbattuti. Volevo solo prepararvi alla storia che sta per raccontarci Gigi, che è l'ascoltatore che si è appena presentato e che è anche un mago, tra l'altro un prestigiatore, e appena lo chiamiamo più tardi al telefono gli chiedo di questa sua attività, ma rimaniamo sulla storia. Gigi ci ha mandato una storia che racconta proprio di questo. Lui ha appoggiato una bicicletta e vede quello che vi ho appena raccontato. Lui lo racconta meglio di me e spiega anche il motivo per cui la sua casa viene abbattuta. Però immaginatevi questa storia e immaginate semplicemente di mandare al 349-238-6666 la storia della vostra casa. Magari ci siete entrati 2 anni fa ed è stata costruita da un geometra del vostro paese 3 anni fa, e tant'è, quella è la storia di casa vostra. Magari invece è una storia, è una casa che ha 100 anni, che ne ha 200, che è appartenuta ai nonni dei vostri nonni o a un signorotto del paese che era caduto in disgrazia e vostro nonno l'ha vinta al gioco. 349-238-6666. O come scrive Luca: la mia casa ha una storia che affonda all'inizio del secolo scorso. Luca, sul nostro profilo Facebook Voi siete qui Radio 24, una parte che è stata ristrutturata una 20 anni fa è più antica e ci hanno abitato il mio bisnonno e la sua famiglia. La seconda parte è stata costruita nel secondo dopoguerra per dare la possibilità a mio nonno e ai suoi fratelli di sposarsi e avere una loro famiglia. A causa delle ristrettezze economiche del dopoguerra, però, il mio bisnonno dovette farsi prestare dei soldi da un amico perché la banca non gli volle erogare il prestito. E mia nonna raccontava sempre questo episodio. Al momento del prelievo del denaro in banca, l'impiegato chiede: «Signor Minotti!» Scusate, mi viene l'accento un po', non lo so perché l'ha impiegato in banca. «Sciur Minotti», che il Minotti è l'amico del bisnonno. «Signor Minotti, come mai preleva i soldi?» E la replica del Minotti: «Voi avete negato il prestito ai Gorla, ma io mi fido di loro, quindi i miei danè glieli do e senza gli interessi». E ogni volta che mi raccontava questi episodi era visibilmente emozionata. Ad oggi noi siamo la quinta generazione in questa casa. 349-238-6666. La vostra casa ha una storia che magari coincide con quella vostra e della vostra famiglia. Magari no, è la storia sua. E se avete voglia di condividerla, oggi è la puntata per farlo. Ma rimanete lì, immaginatevi appoggiati ad una bicicletta nella pianura padana e guardate le ruspe che stanno tirando giù casa vostra. Mattina del 7 dicembre del 2012. Appoggiato alla mia bicicletta, guardo le ruspe al lavoro. Stanno radendo al suolo quella che è stata la mia casa e quella della mia famiglia per 3 generazioni. Oggi è Sant'Ambrogio, per chi lavora a Milano è vacanza. E così, per volere del destino, posso assistere in diretta alla demolizione del Ferrandino, conseguenza della BreBMI, la Brescia-Bergamo-Milano, e della ferrovia alta velocità. Appoggiato alla bicicletta vedo i colpi del braccio della ruspa che hanno un risultato multiplo. Demoliscono un pezzo di muro, fanno sollevare una nuvola di polvere e mi fanno l'effetto di un pugno nello stomaco. Mentre vedo la benna abbattere quello che era il muro della mia camera, mi sento un po' stupido. Ragioniamo, in fondo questa è solo una casa, no? È soltanto una cosa inanimata, perché mi sento così male? E poi vedo cadere il pezzo di muro con la scritta Ferrandino. metà scritta rimasta su. E in quel momento penso a quando con mio papà abbiamo fatto con lo smalto nero una ad una le lettere sul muro. E poi ripenso a tutte le cose che con lui insieme ai miei fratelli abbiamo fatto in quella casa. Tutti i lavori di imbiancatura, di pulizia, di abbellimento, il barbecue per le grigliate, le camminate sui tetti per togliere le gocce e gli innumerevoli sabati e l'estate di lavori di manutenzione. Ogni angolo di casa, ogni pezzo di muro ha una sua storia associata. Avevano cominciato i lavori qualche giorno prima, due o tre giorni prima, e però quel giorno lì preciso in cui io ero a casa, perché era Sant'Ambrogio e quindi era vacanza, mi ha telefonato mia cognata, che è passata di lì e ha visto che stavano demolendo tutto. Allora ero lì appoggiato alla mia bicicletta e c'erano i vicini che stavano guardando. Quante persone ha accolto quella casa per moltissimi momenti di festa o di spensieratezza? Con gli amici di sempre, Ceco, Faili, Renato, le loro famiglie, con tutti i parenti, con gli amici della sua compagnia. Quanti festeggiamenti per ricorrenze familiari. Per non parlare di tutte le altre occasioni. Magari una volta era la banda, un'altra erano gli amici della festa dell'agricoltura, gli alpini o altre ancora. C'era sempre un motivo che faceva sì che il Ferrandino fosse pieno di gente allegra. Lui, il papà, aveva il cuore grande come quella casa, con una gioia di vivere e una leggerezza che è rimasta l'insegnamento più importante che ci ha trasmesso. Bisogna sempre impegnarsi a fondo, con onestà, in tutte le cose che si fanno, ma nello stesso tempo non bisogna mai sprecare l'occasione per trovare un sorriso in qualsiasi momento. Con la mamma formava una coppia formidabile, uniti da un grande amore e da una fede autentica. Condividevano l'approccio positivo alla vita e una contagiosa allegria. Capitava spesso che a cena, con tutta la famiglia riunita intorno al tavolo, scattassero momenti di ilarità collettiva per qualche stupidaggine detta o fatta da qualcuno di noi. Lui era solitamente il più attivo, con il suo spiccato senso dell'umorismo. Ci sono ricordi indelebili e innumerevoli, come quando, orgoglioso della sua opera di restauro, girava col suo guzzino nel cortile davanti agli amici. Oppure, felice, intonava i cori in compagnia. Mio papà era un ragioniere, lavorava come impiegato, è stato anche però sindaco di Calvenzano per due mandati e ha sempre avuto una grandissima passione per le attività pubbliche, era presidente della latteria, era nel consiglio della banda, era un tipo molto impegnato e molto attivo, oltre che molto spiritoso e amante della vita. Altri ricordi più agrodolci sono legati al periodo della sua malattia, come quando la Giruleta è venuta fin là ad omaggiarlo e lui, che gridì tantissimo e si commosse pur tentando di nasconderlo, oppure quando, già parzialmente immobilizzato, si è fatto portare su una sedia vicino all'orto per indicarmi dove e come piantare i semi per i pomodori, le centinaia di partite a scala 40 negli ultimi mesi, con le carte infilate in una spazzola perché la mano sinistra non rispondeva ai comandi, a riprova della sua tenacia e della indomita voglia di vivere, combattendo le limitazioni della malattia. Montagne di ricordi che si accavallano in questa mattina del 7 di dicembre. D'un tratto mi rendo conto che non sono uno stupido sentimentale affezionato a dei muri, ma c'è una motivazione più profonda per quel dispiacere. D'istinto raccolgo un mattone, salgo in bicicletta e parto col cuore gonfio di tristezza, ma ricco di ricordi bellissimi, di un uomo straordinario. E vado al cimitero per portare sulla tomba un pezzo di Ferrandino. Andrò a dire una preghiera e a parlare con papà, che è morto nell'83. Era il 7 di dicembre. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. I luoghi dove siamo vissuti fanno parte della nostra storia. Ogni casa è un patrimonio di storie che, messe in fila, alla fine ci raccontano chi siamo. E so benissimo che attaccarsi alle cose e dare loro un valore che non sia semplicemente quello d'uso in parte è un po' una debolezza, ma so anche che se dovessi levarmi tutti i ricordi legati alla casa in cui sono cresciuto non mi rimarrebbe nemmeno un pensiero in testa. Chiudere per sempre una casa dove si è stati per tanto tempo, anche senza vederla crollare, equivale a chiudere per sempre con un mondo. È dire addio ai vicini di casa, al panettiere, al fruttivendolo, al bar, a tutte quelle facce che sono state nostre testimoni senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Qualche tempo fa il mio amico Federico doveva svuotare la camera dove è cresciuto perché il padre aveva deciso di fare una ristrutturazione. Da quando è mancata sua mamma tanti anni fa, Federico e suo padre non sono più andati tanto d'accordo. Si vedono poco e quelle poche volte che si vedono ne farebbero volentieri a meno. E anche la ristrutturazione è stato un motivo per darsi contro. Vive da solo in una casa più che comoda, mi dice Federico, e vuole anche la mia stanza per farci una cabina armadio. E stavolta un po' gli do ragione, in effetti sarebbe una cabina armadio grande più o meno come la mia prima casa di Milano. Anche per questo, quando mi chiede se nel fine settimana ho voglia di dargli una mano, gli dico di sì. Il sabato mattina arrivo prima di lui, sotto casa. E un tempo conoscevo tutti da queste parti. Ora non conosco più nessuno. Sento che questa strada, il suo ricordo, un po' mi appartengono, anche se ormai in realtà sono quasi estranei. Come se la distanza e il tempo li avessero imbruttiti, svuotati di significato. Fede arriva poco dopo, suo padre non c'è, non si è fatto trovare. Andiamo a vedere, dice con la faccia di chi vorrebbe fare di tutto tranne quello che sta facendo. La casa è completamente sventrata, non c'è più il pavimento, i muri sono solcati dalle tracce per i fili elettrici, solo la porta della camera resiste. Fede si continua a muovere per tenere a bada il fuoco di Sant'Antonio che gli è venuto guarda caso quella mattina. Cominciamo dalla libreria e da ogni libro saltano fuori foglietti, date, dediche, appunti. Ogni libro è un pezzo di memoria. Poi apriamo una scatola delle scarpe piena di foto. Foto di ex compagni di classe, di genitori, foto di recite scolastiche, di fidanzate, di motorini truccati. C'è poi una scatoletta di legno molto vecchia. Dentro ci sono centinaia di bottoni. Sua nonna ha staccato per tutta la vita i bottoni da tutti i vestiti che nessuno metteva più e li ha conservati in quella cassetta. Attraverso i bottoni avrebbe potuto passare in rassegna almeno 4 generazioni della sua famiglia. Una vicina di casa si affaccia per salutarci. Ricordo che quando facevamo il liceo lei era uno dei nostri sogni erotici. Adesso è una mamma con qualche ruga. A parte lei, nella palazzina non abita più nessuno che il Fede conosca. Ogni scatolone che si chiude, lui è sempre più sollevato. Finito l'ultimo, diamo un'occhiata. È l'ultima volta che vediamo la sua stanza. Dopodiché sparirà per sempre. Non esisterà più. Il Fede mi mette in mano le chiavi e corre giù per le scale. Chiudo a chiave la porta d'ingresso e scendo anch'io. Lo trovo sul furgone col motore acceso. Vuole andarsene senza girarsi indietro. Chiudere per sempre. Vuole andarsene una volta per tutte. Non dico niente, salto con lui e partiamo a tutta velocità. Immagino con la sua mamma Gigi nella foto che ci ha mandato, che trovate sulla nostra pagina su radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui. La mamma ha un po' la faccia, sì, la mamma ha un po' la faccia di quelli che dicono: oh, signor, ste foto. E invece Gigi è proprio chinato di fianco alla sua spalla, pronto allo scatto. Alle loro spalle c'è un muro che non so perché mi piace immaginare sia quello del Ferrandino. Pronto Gigi? Eccomi. Ciao, come stai? Abbastanza bene, anche se un po' provato, perché risentire la storia mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca. Beh, insomma, immagino, visto che l'ha fatto venire a noi, immaginarti lì sulla bicicletta, appoggiata alla bicicletta, a guardare la propria casa che viene giù, che non è proprio da tutti, no? Nel senso che magari a molti capita di lasciare una casa, di chiuderla, di venderla, di affittarla, però vederla tirata giù è tanto. Sì, e poi è in realtà il vero... La vera coincidenza, che sarebbe quasi incredibile se tu la vedessi in una sceneggiatura di un film, è il fatto che sia stata demolita proprio il giorno dell'anniversario della morte del papà. Certo, certo, il 7 di dicembre. È stato pazzesco quello. E considera che per noi era un po' il simulacro di lui che ci teneva uniti come famiglia, e il fatto che tutti i Natali li avessimo trascorsi lì ci fa sentire ancora di più la mancanza. Volevo dirti anche che noi l'abbiamo sempre chiamata il Ferrandino, non la casa o altro. Aveva proprio anche un nome. Ma da dove arrivava questo nome, tra l'altro? Ma storicamente pare che sia stata fondata, costruita nel 700 da una famiglia che si chiamava Ferrandi della zona. Era una casa con mulino, era uno dei quattro mulini trevigliesi, l'ultimo rimasto, adesso non c'è più neanche quello. Ma è scusami, Gigi, ma ci racconti, perché sono arrivati molti racconti, molti messaggi che chiedono come funziona. Cioè, come funziona? Un giorno arriva il comune e ti dice, guarda, no, purtroppo... In questo caso è più complicato, arriva proprio dichiarazione della Brebemi che dice guardate che a tutti i proprietari di terreno e di case viene comunicato che ci sarà questa fase di esproprio e quindi questo è una cosa che poi ovviamente c'è il tempo di prepararsi, però l'aspetto anche economico viene compensato in qualche modo, per cui non è drammatico. Il dramma è dover far uscire di lì per esempio mia mamma, che peraltro è mancata a settembre dell'anno scorso per quello che ci ho tenuto a mandarti la fotografia, che è stata lì dal 49, e mio fratello che addirittura fisicamente è nato lì nel 51, e quindi nel 2012 hanno dovuto venire via, e poi la casa è rimasta lì per 6 mesi disabitata e poi è stata demolita. Quindi con quanto anticipo? Un anno? Quanto vi è arrivato l'avviso? Beh, no, l'avviso, tieni conto che la Brebemi e i lavori pubblici d'Italia durano parecchio, per cui non era aspettavamo che tutto il processo arrivasse a termine. Certo, faccio spesso quella strada perché la mia ragazza è di Treviglio, per cui conosco bene quel pezzo e tutti quei lavori. Scusami, ma invece da un punto di vista economico ti rimborsano l'equivalente, cioè fanno una misura catastrofica? Una perizia, fa una perizia. Poi si cerca un accordo in modo bonario, di solito insomma diciamo che dal punto di vista economico non ci si può lamentare troppo, ovviamente avrei preferito lasciargli i soldi. Beh, questo lo immagino. Senti, Gigi, mi spieghi che cos'è la Giruleta, se l'ho letta bene? Questo è il gruppo del corpo musicale di Calvenzano, o comunque dei corpi musicali, che vanno in giro a Natale a suonare le canzoni di Natale. Mio papà, essendo stato componente del consiglio della banda... Le ha fatte tutte tuo papà proprio? Sì. E devo dire che era veramente molto attivo. Un pochino abbiamo preso anche noi figli da lui, perché anch'io non è che mi tiri indietro nel darmi da fare. Ma Gigi, infatti, scusami, io ho fatto un po' di giri su internet, ho scoperto, visto che tu ci dicevi che hai una passione per l'illusionismo, diciamo così. Esatto. Tu sei il mago Joyce. Sì, ma è un nome di battaglia, perché ricordo che faccio soltanto spettacoli di magia per beneficenza, niente di più. Però senti, io tra l'altro l'ho postato sul nostro profilo Facebook, voi siete qui, Radio 24, è un numero con le carte che tu fai, in cui metti sostanzialmente, come si chiama, la previsione, giusto? Cioè tu metti un foglio di carta già scritto che dice, ragazzi, qui c'è un foglio e qua sotto io ho già scritto che carta uscirà. Poi fai un numero con le... Io però non l'ho capito benissimo, Gigi, sinceramente. Cioè tu hai un mazzo blu e alla fine esce una carta rossa. No, che mago sarei. Ok, giustamente. Senti, ma quelle carte lì sono le carte dei maghi, non sono carte qualunque? No, sono carte qualunque, potrei venire a casa tua, se tu mi dai due mazzi di carte ti faccio vedere delle cose notevoli. Qual è il numero più figo che sai fare, Gigi? Uno che ho chiamato Star Trek, perché l'hai chiamato... è una specie di teletrasia, perché ho inventato un meccanismo di associare trucchi di magia al cinema e quindi invento delle storie legate al cinema e faccio dei trucchi di carte, in cui c'è una... specie di teletrasporto delle carte. Ok, qualche volta facciamo un live in cui ti invitiamo e facciamo un numero di magia. Gigi, io ti ringrazio moltissimo per la storia e guarda, a questo punto te lo prometto, ma sarebbe immancabile, insomma, so che mi succederà, per cui ogni volta che andrò a Treviglio dai genitori della mia ragazza mi ricorderò del Ferrandino, passando per la Brebemi, se mai la finiranno. Grazie ancora, Gigi. Grazie a te. A presto. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. 349-238-6666, visto che si parla di storie, di case, ce l'ha raccontata molto bene la sua, Gigi, Matteo scrive, a parte che scrive, perché non leggete mai i miei messaggi? Eccoci qua, Matteo. La mia casa in montagna era un'infermeria austriaca della prima guerra mondiale e poi ancora per una decina d'anni ho vissuto in una torre del 1300. Wow. Il mio bisnonno ha comprato una casa al mare con i soldi della vincita di una causa. L'ha intitolata al padre della moglie, un ammiraglio che da lì era passato molto spesso. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la mia bisnonna, cioè la moglie del bisnonno, l'ha abitato lì e lì ha sentito il nome del figlio tra i soldati sopravvissuti e lì ha accolto di ritorno dalla guerra. Non ho capito bene questo. una bomba gettata via da un aereo dopo l'armistizio non le fece nulla perché è rimasta ancora in piedi, è caduta in un fosso a 20 metri di distanza. Insomma, storie di case più o meno chiare, devo dire, comunque storie di case. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Andate sul profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24 a vedere i numeri che fa Gigi. Intanto continuate a raccontare storie e a inviarcele, se non avete voglia di raccontarle, inviarcele, scaricatele in podcast o ascoltateci in diretta. Grazie a Fabio Cantadori, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie a Mauro Pescio, grazie soprattutto a Gigi, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Nicola, ho 42 anni e vivo a Bra, e la storia di domani è la mia. Parla dell'inizio del viaggio più bello della mia vita in India nel 1997, anche se inizio malissimo. Questa è la mia storia e io sono qui.